Il punto di Stefano Folli. Seppure la Presidente del Lazio Polverini attuerà rapidamente tutte le misure annunciate ieri con tanta enfasi, restano aperti due o tre interrogativi. Primo, lasciamo da parte gli aspetti penali oggetto dell'inchiesta, ma gli sperperi del denaro pubblico erano noti a Roma ben prima dell'ultimo scandalo, perché non è stato fatto mai nulla finché da un giorno all'altro, una volta esploso lo scandalo, si scopre che tutto è marcio? Secondo, non si può parlare più di illeciti singoli e sporadici, è il sistema delle autonomie regionali che non funziona, almeno in ampie zone d'Italia. Ripensarlo delle fondamenta dovrebbe essere una grande priorità politica, viceversa troppo spesso i partiti appaiono complici. Terzo, l'inerzia, se non peggio, di questi stessi partiti e delle istituzioni locali in cui essi sono inseriti, è ormai un grande e permanente manifesto pubblicitario a favore dell'antipolitica, cioè di tutti i movimenti contestatori, e sarà opportuno che qualcuno ci rifletta.